difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce e più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce e più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. I bambini non temono il giudizio di nessuno, perché sono grandi, ecco perché sono liberi. Siamo noi ad essere piccoli. Stai serio? Ok. Capito? Sì. D'ora in poi ora in poi ascolta ciò che vuoi. Dal tuo salotto alle 18 fammi il botto. Piano piano, dillo tu, vai, come il titolo è Gigi Slop. Allo stato puro, ti ripeti, di sicuro, di sicuro. Spettacolo, Pradea. Questa non è teoria. Non è teoria. È un sogno che porta via. Ti accende quel fuoco che ti spinge a creare. Voglio creare. E ti dà la speranza di poterlo fare. Voglio creare. Si concretizza in un volo mentale. Da gioia al tuo giorno. Voglio creare. E non fa male. Gigi Dag, Dag Agostino, discoteca.

Domenica 16 aprile 2006, Balletto Pasquale, Rimini, discoteca Altro Mondo. Affacciatevi alle finestre e appoggiatevi al davanzale. Domenica 16 aprile c'è un Balletto Pasquale. Con Provenzano e D'Agostino non ti fai male. Tranquillo. Bello, bello. Cos'è? Roba di cattedra. Questo e questa è Cielo. Artista? Federico Manzi. Artista. Parolone. Metteci una coppa, va. È il brano di un amico. È la canzone di Federico. Guardi fuori, come luci un trio di marciapiede, la gente si è risolta della sera. Tua madre altezza media, sogni medi, che sbatte gli occhi da cammello, e non sarà segnata neanche spera. Un cespuglio di spini, tuo fratello, che pensa sulle unghie delle dita, affitonato con un'aria da bollito. Tuo padre mani da operaio a vita, che ride gli si spacca il viso, pallidito di TV. Tu

D'Agostino. Io non predico una strada, ma un mondo pieno di strade. Una maggiore conoscenza, una maggiore scienza. Roba di carte. A livelli mi sono speso, ho dimenticato tutto. A cosa? Cosa stiamo ascoltando, fratello? Tresca Losca, artista lento, violento me. Tresca Losca? Tresca Losca. Chiappa la mosca. Questo? Borgia. Qua è per Caio. Vabbè, non si capisce. Borgia. Artista. Artisti. Artista. Magna Romagna. Etichetta. No, che etichetta niente, questo è il nome di Magna Romagna. Sono due che provano a fare gli artisti, ma non c'è verso. Thank you. signore e signori, Mr. Gigi D'Agostino. Dance music, la gottetta, woofer, vai col woofer, dai con sto woofer. Il cammino di Gigi D'Agostino, tac tac tino, tac tac tino. Il disco anziano di oggi è... in the sky, the birds are pulling rain. In your life, a curse has got a name. Makes you lie awake all through the night. That's why. She's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else. And every night she kisses someone. Ho già detto buona sigla, ma sfumare perché devo respirare.